Non possiedi una patente da vero rocker? E sei perplesso? Hai una patente da vero rocker ma ne vorresti un'altra? E sei indeciso? Hai una patente da vero rocker ma vuoi fare il test attitudinale per dimostrare ad Ari e le freak che non ti interessa della patente da vero rocker? Titubi? Titubi? Titubi o titubi? Insomma, rompi gli indugi, non titubare! Vieni se hai fegato! Sabato 1 marzo al garage di via Marelli 280 a Sesto San Giovanni, dal vivo! Ipei! Roberto Friccantoni! Ariel DJ! Il test attitudinale e la patente da vero rocker! Il calendario 2008, l'anno della svolta, e la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll al completo, con anche Mister Trombetta e il mitico Isaac Rizzi in persona. Non mancare per nulla al mondo. Chi manca è un titubone. Rock FM. Un abbraccio ai titubboni all'ascolto, sono le 7:30 dall'orologio qui, eh. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Forza amico, forza amica, è arrivato il momento di togliersi quelle caccole dall'occhio e di affrontare la giornata. Vi piaceva come immagine questa? C'hanno le caccole negli occhi a quest'ora, gli amici e le amiche che ci sentono. Affrontiamo questo venerdì 22 di febbraio alla radice, qui, al grido di quest'oggi, tormentone della trasmissione Opera Italia. Al quale, che va detto anche così però, Opera Italia, che va aggiunto, al quale si aggiunge Marzia via SMS, gruppo d'ascolto delle contadinelle rock, aggiunge Se salvo un pio. Oh, Opera Italia, Se salvo un pio. Così chiacchiera da bar, capito? Grazie Marta. A proposito di gruppi d'ascolto, aggiungiamo, ecco, mi metto nei casini perché poi non li becco. Avevamo Lorenzo da Firenze, a proposito di Dolly, la pecora clonata, meno clonazioni, più colazioni. Grazie ragazzi, siete veramente avanti. Dov'è quello? Eccolo qui, Lele, gruppo d'ascolto, vi sento da schifo ma vi voglio bene lo stesso. Grazie Lele! Speriamo abbia sentito, forse frusciava. Sì, parlavamo a te Lele! Abbiamo tra l'altro, a proposito di scout, eccoli lì, lo sapevo che c'erano gli scout all'ascolto. Qui ci teniamo tutti buoni, perché dobbiamo avere i dati d'ascolto altissimi, quindi vogliamo bene anche gli scout. Ce l'abbiamo in prima persona, io sono uno scout, guarda caso, ascolto metallo da un bel po'. Nella mia band siamo in tre ad essere scout, buongiorno a tutti. Burrini e Panini. Cos'è un modo di dire? A me vanno bene gli scout, l'unico mio problema, l'ho detto l'altra volta, è che non riesco a fare il saluto scout con la mano destra. Cioè mi si piega l'indice, non riesco a tenerlo su. È stato Dio a crearmi così. Cosa posso fare, ragazzi? Sentili qui. Just let me know. Te lo dico. La grande. Oh. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah. amiche. Radioascoltatori. Radioascoltatrici. Di pane, burro e rock and roll. Diciamoci la verità. Sì. Il tradimento avvilisce. Yeah, le corna fanno male. Sì. Però, dice. Ma chi lo sa? Ma chissà che in qualche parte del mondo sul quale noi poniamo lo sguardo, perché intendiamoci, sottolineiamo, abbiamo un'apertura a 180 gradi anche sul mondo, anche a 360 volendo, potrebbero servire a qualcosa. Infatti, spulciando dai giornali, leggo, sigla! Giappone, permessi retribuiti extra per dipendenti traditi. I dipendenti della AIM Company, una società giapponese specializzata nel fornire servizi di marketing alle imprese, ha concesso ai propri dipendenti, quelli caduti in depressione perché traditi dalla moglie o dalla compagna, dei permessi retribuiti aggiuntivi. Tali benefici, stando a quanto spiegato dall'amministratore dell'azienda Miki Iradate, sono per la AIM un vero e proprio investimento. I dipendenti infatti smettono prima di piangersi addosso e riprendono il posto alla scrivania senza pensare più alle proprie pene d'amore. Il numero dei permessi antidelusione affettiva aumentano con l'aumentare dell'età. I più giovani, quelli che hanno un'età inferiore ai 24 anni, sono autorizzati ad assentarsi un giorno all'anno. Chi ha un'età compresa tra i 25 e i 29 ha a disposizione due giorni. Dai 30 ai 40 anni, infine, i giorni diventano tre. Il motivo di questa differenza è stato chiarito dallo stesso amministratore delegato, aperte le virgolette, e per un dipendente di 20 anni, ha spiegato l'amministratore, è più facile trovare un nuovo fidanzato o una nuova fidanzata, mentre per un trentenne o una trentenne le cose si complicano un pochino. Oltre ai permessi per le pene d'amore, l'azienda di Iradate è nota in Giappone anche perché concede ai propri dipendenti ulteriori permessi, sempre retribuiti, ma per usufruire del periodo dei saldi. Ha capito che furbi, per rilanciare l'economia. Robe così. Chiodo schiacciacchiodo. Posso permettermi di dire una cosa? Certo. Cioè, ma a me, se mi fanno le corna un giorno di lavoro, cioè, non è che tipo mi passa così. Infatti. No? Non per essere materialista, una settimanella tipo. Certo, anche una mesata. Una mesata potrebbe valere. Sa che ho notato, vorrei fare un altro. Corti, esatto, cinesi, sì. Braccino corto. Avrei un'altra osservazione da fare. La ma prego. Iradate non potrebbe essere un paese della provincia di Varese, Milano, non esatto. Di Varese. Agrate, Tradate, Cairate e Iradate. Iradate, secondo me hanno voluto camuffare Albizzate, ecco. Canegrate. Esatto. Io credo che sia, se facessimo Usmate, allora approfondiamo Iradate, sicuramente nelle vicinanze di Milano vi abbiamo tanati. E me che c'è? continuano le testimonianze d'affetto da parte di scout all'ascolto. Però la mia domanda è sempre la stessa, ma dovessi decidere di fare lo scout, visto che non riesco a fare il saluto scout col pollice e il mignolo presi della mano destra perché mi sta giù l'indice, mi vogliono bene lo stesso o mi cacciano? Perché mi hanno segnalato che si fa con la sinistra, quindi farei in una botte di ferro. Però dovessi farlo con la destra, eh? Non mi va sull'indice, pazzesco. Anche nelle Kiss Sexy c'è uno scout, c'è una scout. Vorrei assolutamente sapere chi è. Le Kiss Sexy, una scout. Un abbraccio alle Kiss Sexy, la mitica band tributo dei Kiss al femminile, che ci ha anche truccato per il nostro calendario 2008, l'anno della svolta. Allora, avrei da leggere, vediamo se ce la faccio a leggerlo questo. E ne approfitto per ricordare, avete in mente la nostra rubrica sui dialetti? Vorremmo ampliarla, avremo bisogno di un napoletano, un milanese, cosa avevamo pensato? Un marchigiano e... Andiamo a fare uno un ticinese, la Svizzera italiana, sarebbe carino, eh? Conosco un po' di gente. Vabbè, insomma. 335-100-7777, se vi sentite ferrati nel vostro dialetto, noi facciamo le lezioni, quindi vorremmo allargare il parco di professori che abbiamo a nostra disposizione. Ci provo, e no se dis no in sci, a game de fa un quei cos per salvas, se può non davanti in sci, con sta pora Italia, che è il tormentone di oggi. Dite che mi prendono ai legnanesi se gli faccio un provino così. Nell'ultima mezz'ora di quest'oggi, i Beatles in italiano, adesso i Beatles normali. Che gli ha famo, lo dicono pure i Beatles. 7:46 minuti primi, la tua colazione rock, si chiama pane, burro e rock and roll. Nel corso di questa settimana già ci eravamo collegati con Firenze per fare due chiacchiere con Matte, il nostro rocker di riferimento, 13 anni, ha una band, suona la chitarra, si chiamano The Anger. Ciao Matte. Ciao Ariele, come va? Tutto bene? Oggi sei in sbattimento? Sì, ieri sera ho fatto tardi. Che si è combinato di bello? Era allo stadio, sì. Fiorentina? Sì, Fiorentina in Coppa Italia. Ma sei un, cioè, sei un ultra? No, sono un tifoso normale. Tifoso normale. Com'è andata la partita? Abbiamo vinto 2-1. Beh, buona! Allora, complimenti a tutti i fiorentini. Non ci sei fatta a vincere 2-0 come il Liverpool, però... Guarda, non so di cosa stai parlando, ma mi fido di calcio, guarda, ho un piccolo problema che non conosco tanto, però. Anche che squadra divide? Nessuna. Sono sempre stato un ragazzino atipico io. Pensavo fossi interista. Molti miei colleghi sono interisti, sì. Io no, non ci capisco niente di calcio. Ma occupiamoci, tra l'altro mi è venuto in mente adesso, sabato sono. Domani sono alla FLOG di Firenze. Non passi a trovarci? Domani a che ore? Ma in realtà sai cosa faccio? Mi porto via il numero di telefono che ti chiamo, magari ci vediamo prima della serata, un po' a cena. Va bene. Dipende quando arrivo con De Rio. Ma io domani sera ho le prove, sai. A che ora? Dalle 5:30 alle 8. Perché forse? Ah, domani? Sì. Stasera, no, domani sto a sciare. No, dove vai a sciare, Matte? A Corvara. Va bene. Senti, però ti devo fare la domanda. Avevo un paio di domande da farti, poi come al solito andiamo troppo lunghi e non ce la faccio. Nell'ultima telefonata si era accennata al fatto che andate in sala prove e fate. Sì. E vi mette all'improvvisato. Sì, fatto uno, non è che ci va. Ma come funziona l'heavy metal improvvisato, perdonami? Allora, io canto tipo Slipknot con il vocione dicendo un po' di cavolate in inglese. No, tu canti tipo gli Slipknot? Io sto facendo gli urli. Gli urli, sì. Poi quell'altro chitarrista fa la base o qualche. Go. Sì. Una roba così? Sì, poi ci metto qualche assolino distorsato di. Sì, col distorsore. Sì, brutto proprio. No, perché so che si può gemmare col blues, però con l'heavy metal, la gem di heavy metal mi mancava, però con la voce alla Slipknot ancora meglio, cioè immaginavo. Senza però bonghisti dietro, che gli Slipknot non c'ha mica lì 20.000 persone che suonano i tamburi. No, c'è solo fuori. Il chitarrista. Tamburi fuori. Il batterista. Non me ne vogliano i suonitori di tamburi, ma fuori. No. Il batterista, a parte mercoledì, era un po' incoglionito perché. Ah, cosa aveva fatto? Perché? Cosa aveva combinato? No, la mattina insomma uno non è abituato. Ah, tu dici René, quello che ci hai passato l'altro giorno. Ah, ma Remy, scusami. Sì, me lo scrivo se non facciamo. Tra l'altro io guardavo un cartone animato da piccolo che si chiamava Dolce Remy. Non glielo dite mai a lui? Abbiamo fatto anche la canzoncina su Remy, non te la posso dire in diretta. Esatto. Allora avrei un paio di cose da proporti, perché avevo pensato che se ci mettiamo d'accordo potreste fare i Finlay di Pane, Burro e Rock and Roll. Cioè io e Frick potremmo diventare i vostri Claudio Cecchetto, capito? I vostri manager. Ma voi siete ragazzi col ciuffo voi? Che senso? E io non vi ho mai visti, cioè hai il ciuffo moderno? O hai il capello? Come sei fatto? Cioè il capello lungo, betallaro? Allora siamo tutti il capello lungo, tranne il batterista. Va bene. Cioè, il capello lungo si è fatto qua da zero, stanno crescendo. Ma senti, ma capello lungo per intenderci alla metallaro che vi arriva sulla schiena o capello il ciuffo davanti? No, fino alla fronte dietro la schiena. Quindi siete moderni. Siete moderni alla Beatles. Beh, mi piace. Bene, bene. Lavoreremo anche sul look, dimmi. No, mi voglio far lunghi, però non danno noia dopo. No, beh, ma tu falli crescere, no, non danno mai noia. Ma poi siamo. Il chitarrista è un 85. Cos'è il chitarrista? È un 85 di altezza. Ah, una sberla. Io sono un 80. Alla faccia! Non è che. Dovreste fatevi un paio di fotografie che le pubblichiamo. Vai. Così. Ma se deve vedere il chitarrista è proprio grosso. Sembra, guarda, ci abbia. Ma cosa siete? Siete tutti giganti? No, io no. Lui soprattutto. Poi c'è la bassista. Che? Questa bassista è carina o no? Sì, no, è giusto. Dai. No, è alta, normale. Pure lei. No, non è alta, è normale. Normale. Matte, scappiamo, ci sentiamo settimana prossima. Preparatemi due fotografie che le facciamo girare. Ok. Ciao caro. Suonava male, preparatemi due fotografie che le facciamo girare. rock and roll. Ah, finalmente una trasmissione che mi piace. Finalmente un programma radiofonico che buca lo schermo. Mi piace questo gioco di parole. No, suono maledetto. Peggio il campanello. Peggio dell'house music per le mie orecchie. Un campanello infernale. Buongiorno, ragazzi. Portiere Peretti. Buongiorno portinaio Peretti. Buongiorno, è sempre. Vi disturbo se vengo a trovare. È un piacere. Lo studio è a sua disposizione. Sono veramente eccitato perché questa della televisione. Radio. È una cosa che veramente. Poi pensate, milioni e milioni di telespettatori. No, e radioascoltatori. Mi preoccupa quando si eccita Peretti. Deve stare tranquillo lei, eh. No, ma non dovete preoccuparvi, ragazzi. No, perché ogni tanto lei si arrabbia, diciamolo. Sì. Ogni tanto forse non se ne accorge, ma lei cambia a un certo punto, diventa male. Un altro. No, ragazzi, io ci tengo semplicemente che questo palazzo funzioni come deve funzionare. Ah, quando ha ragione. Con le cose che funzionano su, e soprattutto l'ascensore, sapete, questo è un palazzo molto alto e la gente va su. Peretti, pronto? Portinaio, pronto? Tutto il giorno, su e giù. Sì. E quindi l'ascensore deve essere sempre efficiente. Sì. E soprattutto bisogna evitare di lasciare aperte le porte. Perché continua a guardare Frick? No, sta guardando lei. Ariel. A me non mi guarda. Io piglio le scale sempre. No, io faccio sempre le scale. Ma lo sapete che sono uno sportivo. Ma io sto sempre in allenamento. Lo sport è contro la tua religione, ricordatelo. Beh, sì, però faccio eccezioni. Allora, purtroppo, questa volta devo tirare un pochino le orecchie al dottor Antonio. Ma come può dirlo, signor Peretti? Lei ha le prove? Sì, gli ho puntato sul petto una microspia per seguire le sue tracce. Ah. E ho scoperto che lei ha lasciato la porta dell'ascensore aperta al piano. No, non si fa così. Dai! Ariele Ruffiano. Ma non si fa così. Se lo rifai ancora, ti apro il petto, estraggo il tuo cuore, lo affetto, lo cospargo di succo di limone, olio extravergine d'oliva e prezzemolo, lo servo con contorno di cipolle stufate e me lo mangio mentre guardo i soliti ignoti alla TV. Arrivederci. Articolato oggi, capito? Se lo mangia col prezzemolo, il limone, l'olio. Inquietante. Peccato che guardi programmi televisivi orrendi. Ma quali programmi televisivi, Ariele? Non ci siamo capiti. Quello mi vuole mangiare il cuore. Chiama la polizia, i carabinieri, i vigili urbani, chiunque. E cosa gli dico? Denuncio il portinaio Peretti o il portiere Peretti? Già, questo è un problema. Telefona però, telefona. I can take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Tutto un fuoco. I'm on fire. Il boss Bruce Springsteen a qualche minuto dalla chiusura della prima ora di diretta di quest'oggi. È allegro Springsteen che chiudiamo. Ma tra poco altri 60 minuti imperdibili. Se vi mancate dei pezzi, amici frazionati, myspace.com/paneburrofm, il nostro spazio su internet, oppure radiorockfm.com, ci trovate nell'archivio i programmi in streaming. Ma andiamo con la radiopromozione. Sì, perché da quest'oggi in edicola con Panorama in allegato trovate un'altra delle pietre miliari che hanno fatto la storia del rock. Nello specifico quest'oggi Abraxas, un album leggendario, puro rock, ritmi caraibici, blues e psichedelia. Un album capolavoro che ha reso Carlos Santana una superstar internazionale. Tra le chicche imperdibili ricordiamo Oyo Como Va, Samba Pati e la straordinaria cover del classico dei Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Non mancate l'occasione di accattarvi Abraxas di Carlos Santana quest'oggi in allegato con Panorama. Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. Rock FM. Per darti un po' di festa, tutti i giorni.